America 24 di Mario Platero. Buongiorno da New York, Mario Platero, benvenuti ad America 24. Abbiamo un altro lunedì piovoso con New York, direi piuttosto intristita. And they decide to execute us, you know, they, you know, you gotta really give credit to. Che è successo? I Jets hanno perso ieri contro i Colts. La voce che avete sentito era quella di Rex Ryan, che ha gettato la spugna: non andremo al Super Bowl, pazienza. Il sintomo comunque di questa sconfitta è quello di un'altra settimana difficile. Abbiamo il caso Bernanke innanzitutto, sarà confermato o no? E poi domani proprio la Fed dovrà decidere in materia di politica monetaria. Avremo poi il presidente Obama che pronuncerà il suo discorso sullo Stato dell'Unione mercoledì, discorso molto importante, e venerdì, altro appuntamento molto serio, avremo i dati sulla crescita del PIL americano. Ci si aspetta un tasso di crescita del 4,8%. Erano i vocal cords che hanno già cantato i dolori del governatore Ben Bernanke. Gravi difficoltà per Bernanke in congresso per la sua conferma. Al Senato ci vogliono 60 voti e per ora non ci sono. Soltanto 26 sono favorevoli, 15 contrari, 59 ancora incerti. C'è però una grossa battaglia. La Casa Bianca è scesa allo scoperto. Due importanti senatori, Greg Judd, repubblicano, e Christopher Dodd, democratico, presidente e vicepresidente della commissione bancaria al Senato, hanno detto che ce la faranno. Quindi io credo che alla fine Bernanke riuscirà a farcela, nonostante le incertezze. Molto importante che ce la faccia, perché i mercati reagirebbero altrimenti malissimo. Già la settimana scorsa abbiamo visto perdite del 5% in tre giorni, perdite peggiori dal luglio del 2009. Non ci si può permettere incertezza in questo momento. Questo è il segnale che giunge dal mercato. Happy Days, Ben Selvin e Crooners, 1932, in piena depressione, una canzone dedicata alla vittoria di Franklin Delano Roosevelt. Se vi capita di andare a Washington, fra l'altro, vi consiglio vivamente di andare a visitare il monumento a Roosevelt, un monumento struggente con grandi sculture. Una in particolare mi ha sempre molto colpito, è quella di uomini e donne in coda per prendere un piatto di minestra, disoccupati che non trovano lavoro. È la più attuale delle immagini, e la spina nel fianco del presidente Obama, proprio la disoccupazione. Ci saranno tre argomenti che il presidente affronterà mercoledì nel suo discorso. Sta lavorando proprio in questi giorni agli ultimi ritocchi, prometterà il rilancio della disoccupazione e un pacchetto di aiuti per rilanciare l'occupazione, sfiderà il congresso con misure di austerità e rilancerà la lotta a oltranza contro il terrorismo, soprattutto contro Osama Bin Laden. Ascolteremo un Obama determinato, deciso, duro. Sta ricostituendo il presidente e la sua squadra elettorale, ha richiamato David Plouffe a lavorare con lui, si dice che forse Valerie Jarrett potrebbe prendere il posto di Rahm Emanuel. Un Obama insolito che attacca tutti, persino la Corte Suprema, un attacco inusuale. Ha accusato i giudici di voler minare alla base la democrazia americana con la loro sentenza della settimana scorsa, che consente alle aziende di finanziare campagne elettorali. The Supreme Court handed a huge victory to the special interests and their lobbyists. This ruling strikes at our democracy itself. Bene, abbiamo un ospite in studio con noi, Matteo Renzi, sindaco di Firenze. Benvenuto ad America 24. Grazie, buongiorno. Allora, siamo a New York intanto, ma reduci da Washington DC. Da due giorni a Washington, ecco, programma breve ma intenso. Breve ma intenso, ma soprattutto di un certo prestigio, perché c'era la conferenza dei sindaci e, se non sbaglio, Renzi era l'unico sindaco europeo, forse, o sbaglio? L'unica città europea invitata era Firenze, e poi c'erano altre due città, Mexico City e Hiroshima. Un incontro, un appuntamento importante per migliorare le relazioni tra sindaci, ma anche per un progetto al quale teniamo molto, che è il progetto del 2012, l'anno in cui ricorderemo il quinto centenario della morte dell'uomo che ha dato il nome all'America, dell'uomo che ha battezzato l'America, Amerigo Vespucci, che era un fiorentino doc, puro sangue. E questo è riuscito a raccontarlo al presidente Obama alla Casa Bianca? Beh, il presidente Obama è stato divertente perché c'è stato un incontro molto ricco di spunti e di stimoli tra i centinaio di sindaci americani e noi tre ospiti stranieri e il presidente Obama, e alla fine sono andato a salutarlo quando gli ho detto che ero il sindaco di Florence, Italy. Dice: "Really? Are you the mayor of Firenze?" Ha detto proprio Firenze, perché Obama ha conosciuto Firenze molto bene 13 anni fa, quando era un giovane studente, un giovane avvocato di Chicago, e mi ha chiesto innanzitutto informazioni sul cibo e sul food e sul vino, non prima ancora che sulle grandi eredità culturali di Firenze. Speriamo di poter portare Obama nel 2012 in Italia, a Firenze in particolare. Così bisognerà organizzare anche una cenetta, perché lui ci tiene molto ad andare con Michel nei ristorantini locali, quindi... The city with the best restaurants in the world ha definito così la mia città, e questo naturalmente da un lato inorgoglisce, dall'altro ci fa fare grandi riflessioni su come il marketing oggi debba passare sicuramente da una diversa promozione del territorio culturale, ma anche, perché no, da una capacità di raccontare il lifestyle italiano in modo diverso, in modo nuovo e forse in modo più attento ai valori, come quello del cibo, della sostenibilità, del vino. Soprattutto è stato davvero un incontro ovviamente emozionante, perché stare alla Casa Bianca non è che capiti tutti i giorni, ma certo, anche, ecco, divertente. E Obama di che umore era? Di questi tempi, poveretto, insomma, gliene succedono un po' di tutti i colori. Era tranquillo, rilassato, allegro o con un velo di preoccupazione? A me ha colpito molto il tono dell'incontro, un'ora e mezza di incontro con i sindaci, perché intanto ha chiesto spesso di farsi fare delle domande. Non noioso come spesso sono gli incontri che si fanno nelle nostre ufficiali riunioni, e chiedeva spesso di fare domande dei sindaci repubblicani, che naturalmente non si sono tirati indietro a partire dalla questione della riforma sanitaria e dall'elezione di Scott Brown in Massachusetts. Per quello che ho potuto vedere è un po' il trionfo del confronto e del dialogo democratico. Il giorno dopo una cocente sconfitta per lui, comunque in campo a discutere con anche i suoi avversari politici interni, ma in una logica di grande rispetto delle istituzioni, perché nella sala della Casa Bianca quella è la sala dell'America, e dovrebbe essere un insegnamento anche per noi. Vabbè, sicuramente cerchiamo da America 24 di farlo sempre, di portarlo sempre questo tipo di messaggio. Ecco, cosa racconta un sindaco italiano ai sindaci americani? Racconta che questa grande città, grande per la sua storia, non certo per le sue dimensioni, è una città che ha molto da dire e da dare agli Stati Uniti, ma anche molto da ricevere. Siamo la città al mondo, al di fuori degli Stati Uniti, con il maggior numero di università americane. La nostra principale azienda è un'azienda americana, del nuovo pignone, è stata comprata da General Electric. Abbiamo una tradizione di relazione sul mondo del cibo, del vino, del lusso, che fa dell'America per noi una delle principali realtà economiche. Allora c'è un debito di riconoscenza, perché noi sì abbiamo dato il nome all'America attraverso Vespucci, che era un fiorentino importantissimo nella città allora, e dall'altro lato però, nel dare il nome, oggi noi vogliamo insieme ai sindaci americani organizzare questo grande appuntamento del 2012, per non soltanto per ricordare il passato, ma per dare un nome al futuro. Io penso che sia importante per un giovane sindaco non limitarsi a ricordare il passato, ma tentare di costruire una nuova idea per il futuro. E Obama verrà? L'invito ufficiale naturalmente non dipende dal sindaco, dipende dalle istituzioni centrali. Il Presidente della Repubblica, che è stato informato e che mi ha ricevuto qualche settimana fa, è stato molto disponibile a lavorare su questo progetto. Il governo centrale porterà nelle prossime settimane in Consiglio dei Ministri una particolare dichiarazione, una dichiarazione di grande evento per l'anno di Amerigo. L'obiettivo, io sono ottimista, ma l'importante è riuscire a inventarsi su questo una nuova storia per raccontare Firenze. Firenze non è soltanto il cimitero dei nostri ricordi, Firenze è una grande città che vuole parlare al futuro e che ha bisogno per farlo di contaminarsi sempre di più con le belle storie di tutto il mondo, e perché no, partendo dagli Stati Uniti. Bene, allora grazie Obama in Florence, speriamo. E Renzi a New York, grazie per essere stato con noi. Renzi a New York, ma perché no? Ci Ci sono mille altre notizie, pettegolezzi, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Eccone alcune di queste notizie. Brad Pitt e Angelina Jolie si lasciano e si spartiscono una fortuna da 320 milioni di dollari. James Cameron, grande regista, supera se stesso, incassi record per Avatar che si prepara a superare Titanic, quasi 600 milioni di dollari al botteghino in poche settimane. Ed eccoci al finale, alla nostra canzone del giorno. Steven Tyler ha detto che lascerà gli Aerosmith, la band di cui ha fatto parte per quasi 40 anni. Sentiamolo dunque in un classico adatto a questa giornata piovosa e a questa settimana difficile, Crying, piangendo. So broken hearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah, and calls me in them ways I parted. That kind of love was the killing kind. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.